GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La tragica vicenda di Muggia, dove martedì sera una madre ha ucciso il proprio figlio di 9 anni tagliandogli la gola, l'accusa di omicidio volontario priore aggravato. Si cerca di capire come sia stato possibile che la donna, seguita a lungo dai servizi sociali e dal centro di salute mentale, si trovasse da sola con il figlioletto nonostante l'allarme lanciato dal padre. Scoppia un tubo flessibile, feriti 2 operai all'ABS di Cargnacco, trasportati in ospedale, non sono in pericolo di vita. Tramonta l'idea del tunnel di base sotto il passo di Montecroce Carnico, l'indicazione arriva dopo l'incontro tra l'assessora alle infrastrutture del Friuli Venezia Giulia, Cristina Mirante, e il vicegovernatore della Carinzia, Martin Gruber. Crescita contenuta in Friuli Venezia Giulia nel primo semestre del 2025, secondo l'indicatore periodico dell'economia regionale elaborato dalla Banca d'Italia e presentato poco fa, il PIL regionale è aumentato dello 0,4% rispetto al primo semestre del 2024. Firmati a Bovez i documenti della progettazione esecutiva della riqualificazione del comprensorio del Monte Canin, con un intervento stimato in 100 milioni di euro e un cofinanziamento statale fino a 30 milioni. Oggi è la giornata mondiale del diabete, quest'anno dedicata alle difficoltà quotidiane dei lavoratori diabetici, e che cosa si potrebbe fare per rendere migliori le loro condizioni di vita, diverse le iniziative organizzate in regione. A Pordenone uno spettacolo per le scuole che racconta le scienziate donne, ispirato alla figura di Marie Curie. Questa mattina uno spettacolo per le scuole appunto invece dedicato a Rachel Carson, biologa statunitense che con i suoi studi contribuì alla messa al bando del DDT. Domani cielo grigio e foschie, domenica arrivano le piogge che diventeranno abbondanti, lunedì le previsioni del tempo per il fine settimana con l'ARPA Friuli Venezia Giulia. Le 12.32 in questo istante, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Beers e da Livia Liberatore che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 14 novembre. In primo piano dunque ancora la tragica vicenda di Muggia, dove mercoledì sera una madre ha ucciso il proprio figlio di 9 anni tagliandogli la gola e alla quale è stato convalidato il fermo con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato. Intanto si cerca di capire come sia stato possibile che la donna, seguita a lungo dai servizi sociali e dal centro di salute mentale, si trovasse da sola con il figlioletto, nonostante l'allarme che era stato lanciato dal padre separato e che era assente nel momento della tragedia. Il piccolo Giovanni non voleva stare con la madre. Dopo l'omicidio del bimbo a Muggia, ucciso con un coltello da cucina da Olena Stasiuk, 55 anni, emergono i particolari di una tragedia con anni di battaglie legali alle spalle. L'affidamento era stato dato al padre, 57 anni, sarebbe stato definitivo a febbraio. Ora c'era una custodia prevalente. Nel 2023 il centro di salute mentale aveva stabilito che non dovesse più essere seguita. Querele incrociate fra i genitori per l'affidamento con l'episodio denunciato dal bambino 2 anni fa dell'aggressione da parte della madre. I servizi sociali da poco tempo avevano stabilito che la donna potesse vederlo 3 volte alla settimana e una di queste, il tribunale, aveva scelto di concederle una visita senza affiancamento dell'assistente sociale. Emerge poi che pochi giorni prima della tragedia il bambino continuava a rifiutarsi di voler stare con la madre, che avrebbe cercato di chiamare la polizia per far valere il diritto concesso dal tribunale. Poco fa c'è stata la convalida del fermo della donna che è accusata di omicidio volontario pluriaggravato. Domani sera alle 20.30 ci sarà una veglia funebre qui a Muggia. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un infortunio sul lavoro si è verificato alle 23.30 di ieri nello stabilimento ABS di Cargnacco, dove sono rimasti feriti 2 operai. Secondo una ricostruzione, un tubo flessibile dell'impianto di raffreddamento della gabbia di un forno fusorio è improvvisamente scoppiato per cause che dovranno essere accertate, investendo 2 operai con acqua calda in pressione e facendoli cadere a qualche metro di distanza. I lavoratori sono stati ricoverati in ospedale per accertamenti, ma non sono in pericolo di vita e non risulta che abbiano avuto contatto con sostanze pericolose. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores e carabinieri che si stanno occupando dell'indagine insieme agli ispettori dell'azienda sanitaria. La Polizia di Stato di Trieste ha arrestato un cittadino moldavo di 25 anni per i reati di uso di atto falso e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. L'uomo, che è stato individuato durante i controlli a San Giovanni di Duino a bordo di una vettura, aveva esibito una carta d'identità e un passaporto con evidenti anomalie nella stampa rilasciati dallo Stato romeno. Gli agenti hanno accertato quindi che l'uomo non risulta intestatario di documenti rumeni, ma è cittadino moldavo e che quelli presentati erano chiaramente da ritenersi falsi. Presentato a Tolmezzo lo studio di fattibilità per ampliare in sicurezza il passo di Monte Croce Carnico, elaborato dal gruppo di lavoro bilaterale istituito dalla Carinzia e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Sono state esaminate le tre varianti di ampliamento, la galleria di base, la galleria di valico e il tracciato alternativo, nonché il mantenimento del tracciato esistente. Tramonta l'idea del tunnel di base sotto passo Monte Croce Carnico. L'indicazione arriva dopo l'ultimo incontro tra l'assessore delle infrastrutture del Friuli Venezia Giulia, Cristina Mirante, e il vice governatore della Carinzia, Martin Gruber. A scoraggiare l'ipotesi di una galleria di base sono i costi eccessivi e la certezza, condivisa durante l'incontro, che non possono essere utilizzati i fondi europei per l'opera, dal momento che passo Monte Croce Carnico non fa parte della rete transeuropea di trasporto. Altro punto su cui le due regioni concordano è l'opportunità di mantenere l'attuale tracciato soggetto a dissesto idrogeologico, come si è visto con l'enorme frana di inizio dicembre 2023. L'evento ha portato alla chiusura totale della strada per oltre un anno e a un importante danno per le popolazioni a ridosso del confine. Il passo è ora di nuovo chiuso fino al termine del 2025 per ulteriori lavori, dopo che nei mesi scorsi era stato garantito il transito diurno. Restano due ipotesi: la galleria di valico, più breve perché posta più in alto rispetto a quella di base, e il tracciato alternativo senza perforazioni. Quest'ultima opzione, la più economica, costerebbe 150 milioni contro gli oltre 500 della galleria di valico, per la quale si stimano 4 anni di lavori. In entrambi i casi servono finanziamenti nazionali. Il Friuli Venezia Giulia è favorevole alla soluzione della galleria di valico perché garantirebbe un'apertura continua. Le due regioni hanno deciso di istituire un gruppo di lavoro tecnico permanente insieme ad ANAS per definire i prossimi passi. In sostanza, con l'abbandono del tunnel di base cade l'idea di creare una nuova via di transito, ma resta tuttora sentita la necessità di realizzare un'infrastruttura a servizio del territorio. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. 100 milioni di euro a disposizione delle imprese alberghiere del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Le associazioni degli albergatori hanno chiuso un accordo a Mestre per facilitare l'accesso al credito delle aziende del comparto turistico, mettendo in campo strumenti finanziari dedicati e condizioni favorevoli grazie alla garanzia consortile di Fidimpresa Friul Veneto e alla controgaranzia di Mediocredito Centrale. Si prevede quindi la possibilità per le imprese associate a Federalberghi Veneto e Friuli Venezia Giulia di accedere ai finanziamenti a breve e medio termine per far fronte ai fabbisogni stagionali o per sostenere investimenti in strutture, impianti e attrezzature. Le linee di credito possono andare da 12 fino a 36 mesi. Crescita contenuta in Friuli Venezia Giulia nel primo semestre del 2025. Secondo l'indicatore periodico dell'economia regionale elaborato dalla Banca d'Italia e presentato oggi, il PIL regionale è aumentato dello 0,4% rispetto al primo semestre del 2024. L'economia del Friuli Venezia Giulia continua a crescere ma a ritmo molto contenuto. E quanto emerge dall'ultimo aggiornamento congiunturale della Banca d'Italia, che per la prima metà del 2025 stima un aumento del PIL regionale dello 0,4%, leggermente sotto la media nazionale. L'industria mantiene i livelli del 2024, bene i comparti alimentare, meccanico ed elettrodomestico, mentre elettronica e metallurgia segnano un calo. Le esportazioni, spinte anche dalla cantieristica, crescono del 6,6%, ma restano quasi ferme se depurate dall'aumento dei prezzi. Prosegue invece la fase positiva delle costruzioni trainate dai cantieri pubblici e dalle opere finanziate dal PNRR. Nel terziario l'attività si rafforza grazie al turismo, che registra presenze in aumento dell'8,7%, mentre il commercio risente della debolezza dei consumi delle famiglie. Nel sistema portuale il traffico complessivo cresce dello 0,8%, ma i container crollano del 16,8%, complice la riorganizzazione dei collegamenti marittimi internazionali. Sul fronte finanziario la liquidità delle imprese rimane elevata e tornano a crescere i prestiti bancari, più 1,4% in estate, sostenuto sostenuti dal calo dei tassi. L'occupazione resta stabile, aumentano i dipendenti, soprattutto con contratti stabili. Per le famiglie il potere d'acquisto non migliora, i redditi crescono ma vengono erosi dall'inflazione. La spesa resta prudente anche se prosegue la forte ripresa dei mutui casa, aumentati del 41% nei primi 6 mesi dell'anno grazie ai tassi in discesa. I prezzi delle abitazioni invece crescono del 4,5%. In aumento infine i depositi delle famiglie e soprattutto il valore dei titoli in portafoglio, spinti dall'andamento positivo dei mercati finanziari. Trieste, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'Ater di Trieste ha una nuova direttrice, si tratta di Raffaella Delai, con oltre 30 anni di esperienza acquisita nelle aziende ERP in regione, in particolare in Ater Gorizia. La nomina è stata deliberata all'unanimità dal Consiglio di amministrazione dell'azienda triestina, capitanata dal presidente Daniele Mosetti e composto dai consiglieri Daniela Pallotta e Riccardo Novacco, dopo che il nominativo era stato indicato dalla giunta regionale tramite un'apposita convenzione. Delai assumerà lo stesso ruolo anche in Ater Gorizia. Vediamo il tempo, cielo coperto su pianura e costa, poco nuvoloso sulla zona montana, le temperature registrate alle 11, a Trieste 14 gradi, a Gorizia 13, a Udine 12,5, a Pordenone 12, a Tarvisio 10 gradi, a Tolmezzo 8,5 gradi, a Forni di Sopra 6 gradi, sul Piancavallo 5 gradi, a Sappada 2, sul Monte Lussari 9 gradi e sul Monte Zoncolan 1,5 gradi, a Grado 12,5 gradi, a Lignano 10,5 gradi. E per sapere cosa ci aspetta dal punto di vista del meteo in questo fine settimana e all'inizio della prossima, sentiamo ora il previsore dell'ARPA, Marcellino Salvador. La giornata di sabato avremo una giornata ancora di cielo grigio con foschie, forse una situazione un po' migliore nel Tarvisiano, un po' più riparato dai venti umidi da sud-ovest, per cui potrebbe essere un cielo poco nuvoloso variabile. Temperature massime intorno ai 15 gradi in pianura, 17 lungo la costa, le minime saranno intorno ai 10 gradi in pianura, 12 o 13 sulla costa. Giornata di domenica che vedrà cielo coperto ancora ma con piogge, specie dal pomeriggio e sulle zone orientali, ma qualche pioggia sarà possibile già anche in mattinata. Piogge che poi nella serata verso lunedì diventeranno abbondanti, con venti di scirocco sulla costa. Giornata di lunedì ancora con piogge abbondanti, probabilmente su tutta la regione, poi nella serata di lunedì arriva l'aria fredda, comincerà a nevicare in alta montagna e avremo poi un miglioramento deciso nella giornata di martedì quando soffierà la bora. Firmati a Bovez i documenti della progettazione esecutiva della riqualificazione del comprensorio del Monte Canin, con un intervento stimato in 100 milioni di euro e un cofinanziamento statale fino a 30 milioni. Lo comunica il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini. Il cronoprogramma prevede la conclusione degli elaborati in 150 giorni. La cabinovia di Bovez è chiusa dal 2023 per ragioni di sicurezza. Il collegamento internazionale con Sella Nevea è un asset unico nell'arco alpino orientale, commenta Mazzolini. Più investimenti significano più stagioni, più sicurezza impiantistica e più ricadute per entrambi i versanti. Continuano i lavori di ripavimentazione lungo la rete di autostrade Alto Adriatico. Il cantiere riguarderà nel fine settimana il tratto tra Pordenone Sud e Cimpello dell'autostrada A28 in direzione Portogruaro. Dalle 22 di oggi alle 20 di domani, oltre alla chiusura delle corsie di marcia ed emergenza della carreggiata sud, ci sarà la chiusura della rampa di uscita e ingresso in A28 in corrispondenza dello svincolo di Pordenone Centro Commerciale. Chi transita sulla A28, diretto quindi verso Pordenone Centro Commerciale, potrà uscire allo svincolo di Pordenone Sud. Chi invece proviene da Pordenone Centro Commerciale e vuole prendere la A28 per dirigersi verso Portogruaro, potrà farlo allo svincolo di Cimpello. Oggi è la giornata mondiale del diabete, quest'anno dedicata alle difficoltà quotidiane dei lavoratori diabetici e a che cosa si potrebbe fare per rendere migliori le loro condizioni di vita. Diverse le iniziative organizzate in Friuli Venezia Giulia, continua la ricerca della diabetologia pediatrica al Burlo Garofalo che sta preparando il primo screening in Italia sul tipo 1, così da scoprirlo prima che si manifestino i sintomi. Addio penne per l'insulina e addio o quasi alle punture giornaliere per misurare la glicemia. Sempre più bambini diabetici seguiti all'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste usano microinfusori che regolano la somministrazione dell'insulina tramite un tubicino sottopelle, il cosiddetto pancreas artificiale dotato di sensori e algoritmo. In molti casi i nostri pazienti lo ricevono fin dall'esordio della malattia, spiega il professor Gianluca Tornese, pediatra diabetologo del Burlo, dove sono un centinaio i pazienti con diabete di tipo 1 fra bambini e giovani adulti. In Italia sono circa 20.000 i bambini adolescenti con diabete di tipo 1 e l'incidenza è in aumento del 3% l'anno. Fattori genetici e ambientali giocano un ruolo importante, anche se le cause precise restano in parte sconosciute. Il Burlo sta lavorando alla messa a punto del primo screening del diabete di tipo 1 in Italia per individuare la malattia prima che arrivino i sintomi. Si va a rilevare gli autoanticorpi associati a questa malattia, risparmiando ai bambini esordi gravi e preparando le famiglie a un percorso di cura più consapevole. Oggi, 14 novembre, si celebra la Giornata Mondiale del Diabete. Il tema scelto per questa 34esima edizione è diabete e benessere sul lavoro, un'occasione per sensibilizzare cittadini, istituzioni e media sull'impatto della malattia nella vita quotidiana dei circa 100.000 diabetici residenti in Friuli Venezia Giulia. Alcuni accorgimenti concreti nei luoghi di lavoro possono fare una grande differenza, come fare una pausa in caso di ipoglicemia, poter usare lo smartphone per controllare il sensore e avere uno spazio dove gestire l'insulina e ridurre lo stress. Non si tratta di privilegi, ma di condizioni minime per lavorare senza rischi e senza stigma. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Le malattie invalidanti, secondo i dati dell'Istat, colpiscono in media il 5,2% della popolazione nazionale. Nell'addestra tagliamento più di 16.000 persone con disabilità vengono affrontate ogni anno dalle commissioni mediche gestite nel territorio dall'INPS di Pordenone per valutare la domanda di primo riconoscimento, la domanda di aggravamento o la revisione. In totale l'INPS pordenonese valuta 30.000 pratiche all'anno, un numero in aumento rispetto agli scorsi anni, tra cui crescono anche le domande di legge 80, corsia preferenziale per i pazienti oncologici e soprattutto le domande tra le generazioni giovani. A comunicarlo è l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili di Pordenone, che ha eletto il nuovo consiglio provinciale. Presidente è stato scelto Carmelo Macauda. E a Pordenone c'è un progetto ispirato alla figura di Marie Curie che racconta le scienziate donne. Stamattina uno spettacolo per le scuole dedicato a Rachel Carson, biologa statunitense che con i suoi studi contribuì alla messa al bando del DDT. Spettacoli per le scuole, incontri, proiezioni e mostre per portare alla luce il contributo storico delle donne al progresso della scienza, della tecnologia e della società. Il progetto Curie Naturale Artificiale è partito questa mattina all'Auditorium Concordia di Pordenone con il recital Primavera Silenziosa, parole, musica e live painting per consentire a studentesse e studenti delle medie e superiori di immergersi negli scritti di Rachel Carson, biologa e zoologa statunitense, madrina dei movimenti ecologisti. La curatrice del progetto, Federica Guerra. È stata una divulgatrice scientifica degli anni 60 e scienziata biologa marina. Con il suo Primavera Silenziosa denuncia l'inquinamento del DDT nel secondo dopoguerra. Lo spettacolo, il reading, è arricchito delle musiche di Dave Crosby, Neil Young e del live painting di Andrea Venerus. Qual è l'interesse di ragazzi e ragazze verso questi temi? Sono interessati perché vogliono scoprire storicamente appunto qual è stata l'evoluzione delle donne nella scienza, ma anche appunto quello che è il loro impegno attuale in materie come le STEM, ad esempio. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Mantenere uno stile di vita sano e attivo in tutte le varietà della vita aiuta a prevenire molti tipi di disturbi e patologie. La Regione Friuli Venezia Giulia, proprio per questo, promuove attività come i 10.000 passi di salute. Appuntamento a Monfalcone domattina lungo il litorale isontino. Mantenersi in forma camminando in compagnia. Il progetto FVG in Movimento 10.000 passi di salute offre passeggiate di gruppo in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio. Oltre 120 percorsi disponibili immersi nelle bellezze naturalistiche, architettoniche e storiche, dal mare ai monti, con l'obiettivo però di sentirsi meglio attraverso uno stile di vita sano. Stefano Lazzer, coordinatore del corso magistrale in scienze motorie all'Università di Udine. 10.000 passi rappresentano circa 7-8 km di camminata, che sono i suggerimenti che dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che noi dovremmo cercare quasi ogni giorno di mantenerci attivi con questa indicazione. È un progetto nato dalla Direzione Centrale Salute in collaborazione con Federsanità ANCI, i Dipartimenti di Scienze Matematiche dell'Università di Udine, Scienze Motorie anche. Tutte queste persone si sono unite per con solo obiettivo di promuovere il benessere delle persone. Il prossimo appuntamento domattina alle 9.30 sul lungomare isontino tra Monfalcone e Staranzano. Camminate guidate da capigruppo chiamati Walking Leader. Come lo si diventa? Con dei semplici giornate di formazione che vengono organizzate appunto da queste varie istituzioni, e dove il walking leader chi è? Una persona che si prende un po', non dico la responsabilità, ma è il promotore di queste camminate. Ha una formazione che gli consente di capire come è fatto il percorso, il livello di difficoltà, le principali nozioni di base per intervenire nel caso si verifichino anche qualche problemino. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Museo del Mare di Trieste è custode del patrimonio archivistico dell'OID, prima austriaco, poi triestino, materiale che è stato presentato in un nuovo allestimento al magazzino 26, nel servizio l'intervista al curatore dell'allestimento Andrea Bonifacio. Il Museo del Mare di Trieste è custode dell'enorme patrimonio archivistico dell'OID, prima austriaco e poi triestino, materiale che è stato presentato in un nuovo allestimento al magazzino 26. La compagnia di navigazione austriaca era fortemente voluta da Vienna, aveva la sua sede principale in Piazza Unità a Trieste, nel palazzo che oggi conosciamo come sede della regione, e le sue prime rotte, oltre a quelle sperimentali per Venezia, erano dirette già a Istanbul. L'intenzione da subito è quella di coprire le rotte verso l'Oriente, di fatto sovrapponendosi a quello che era storicamente, fin dall'alto medioevo, le rotte dei traffici veneziani. In questo senso è importantissima e cruciale per Trieste il collegamento ferroviario che arriverà pochi anni dopo la nascita dell'OID, ma era già nel programma. Finisce la prima guerra mondiale, finisce l'impero asburgico e finisce anche l'OID austriaco, ma rinasce come l'OID triestino. Trieste passa al Regno d'Italia e l'OID prontamente si dichiara compagnia di navigazione italiana, chiede l'iscrizione alla Camera di Commercio italiana e cambia nome, ovviamente, perché è un po' scomodo chiamarsi l'OID austriaco, specialmente in quei tempi, e diventa il l'OID triestino. Acquisisce un motto proposto da D'Annunzio e riprende prontamente le rotte tradizionali, che sono le rotte del Levante. Dal traffico passeggeri il Lloyd arriva alle porta container. L'aereo mette fuori mercato il trasporto marittimo delle persone. Il governo italiano decide di ordinare alle compagnie di bandiera, che erano quasi tutte nazionalizzate negli anni 60-70, impone di chiudere al più presto tutte le linee passeggeri. Il Lloyd triestino, tra i primi nel Mediterraneo, ha l'intuizione di adottare il container come sistema di navigazione. Nada Choc, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo sport pallanuoto, nell'anticipo televisivo della settima giornata del campionato di Serie 1 femminile, le orchette alabardate affronteranno oggi in trasferta il plebiscito Padova. Si gioca nella piscina del centro sportivo plebiscito con inizio alle 19.30. Entra nel vivo il programma del Fake News Festival di Udine. Dopo gli appuntamenti della mattina, alle 14.30 a Palazzo Antonini Stringer si parlerà del ruolo educativo dei media in famiglia con l'incontro Mamma, l'ho visto su TikTok. Alle 16 alla Torre di Santa Maria un dibattito su come i media raccontano le donne. Alle 18 sempre alla Torre di Santa Maria ci sarà Lodo Guenzi, frontman del gruppo musicale Lo Stato Sociale. Evento di prevenzione, il titolo della serata di musica, spettacolo e attualità organizzata per favorire le pratiche della prevenzione del diabete e dell'obesità. La serata si terrà nel teatro di Gonars in via 4 Novembre a Faullis alle 20. Vediamo altri appuntamenti, presentazione del libro dell'autrice tolmezzina Raffaella Carnielutti, L'altra guerra che racconta la Carnia durante la Seconda Guerra Mondiale, alle 18 all'Ecomuseo della Gente di Collina di Fagagna. In occasione della mostra Tolkien, uomo, professore, autore, a Trieste fino all'11 gennaio 2026, alle 17.30 nel Salone degli Incanti, luogo dell'esposizione, si terrà un evento a cura della Cappella Underground dedicato all'immaginario tolkieniano nel panorama musicale. Dopo chiusa forte e Ragogna, la mostra fotografica Il secolo di cemento armato, promossa da Story Grafica PS, approda a Trieste. Sarà visitabile presso la Sala Ficche di Piazza Piccola, alle 18 l'inaugurazione. Prosegue la stagione concertistica Elena Lipitzer, promossa dall'associazione culturale Maestro Rodolfo Lipitzer. Protagonista la compagnia Flamenco Nuevo, con lo spettacolo Fantasia Flamenca, alle 20.30 al Kulturni Center di Gorizia. E alle 12.54 minuti si chiude qui questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta da Livia Liberatore e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari e Viola Romanese. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Grazie per l'attenzione, appuntamento con il prossimo GR alle 15. Buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.